la lotta contro il fascismo e contro il nazismo. In Italia, in Jugoslavia, in Francia, dove è sempre una lotta comune. Quindi se io combatto con gli italiani, combatto anche per la mia gente. E gli dissi così, dico, io rimango qui perché penso che combattere con voi, combatto anche per la mia gente. Il 25 aprile 1945 il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia proclama l'insurrezione generale, mettendo così fine all'occupazione nazista e al regime fascista. Cosa rimane oggi di questo evento e come si è costruita la memoria pubblica della Resistenza? Lo raccontiamo nello speciale Tra Utopia e Lotta, 80 anni di Resistenza in tre puntate dedicate alla lotta di liberazione. Gli 80 anni dalla fine della guerra di liberazione sono per noi un'occasione per riflettere su cosa è stata la Resistenza, sui protagonisti, su come si è evoluta e sviluppata la memoria pubblica di un fenomeno europeo e transnazionale ampiamente diffuso. Certo, non serve il 25 aprile o un anniversario tondo per raccontare ancora la Resistenza o l'antifascismo. Anzi, il filo rosso che accompagna moltissime puntate e podcast di Walloon è sicuramente una riflessione costante su questi temi. E noi abbiamo raccontato in molte puntate in questi 10 anni di trasmissione la Resistenza declinata in tutte le sue sfaccettature e di certo continueremo a farlo. Ma si sa, quello che si muove dietro e dentro gli anniversari è difficile da ignorare. Tra pubblicazioni, convegni, articoli di giornali e interviste, anche lo stato dell'arte e della ricerca sicuramente. Ma soprattutto quello che ci preme come storiche e divulgatrici è domandarci come sta l'antifascismo oggi. Se si parla ancora di resistenza, se la lotta partigiana è un fatto assodato dall'opinione pubblica e soprattutto anche se le nuove generazioni sanno qualcosa di questa storia. È solo provando a rispondere a questi interrogativi che ha senso ancora parlare di resistenza. E ha senso ancora parlare di resistenza solo se diventa un mezzo anche per parlare delle lotte di oggi. La redazione di Walloon in questi mesi è stata impegnata nella ricerca, nella scrittura e nella produzione di un podcast per e sulla Biblioteca Cabral e ci siamo addentrate in un mondo che conoscevamo meno: l'internazionalismo, le lotte di indipendenza e il terzo mondismo, e abbiamo scoperto che alcuni dei leader delle lotte di indipendenza dei paesi africani guardava alla resistenza europea di 25-30 anni prima come un esempio pratico da imitare. La resistenza quindi ha scavallato i confini del continente europeo ed è stata di ispirazione per un altro continente e per altre lotte e per altri uomini e donne. Le idee dunque corrono veloci, si adattano ai tempi, non tengono conto di spazi e confini. E in questa puntata speciale per l'ottantesimo vogliamo cominciare dall'ideale cosmopolita per eccellenza, quello che scavalca davvero i confini e fa del mondo intero una patria. Oggi a Walloon vi parliamo di anarchici e anarchiche in giro per il mondo, che nonostante un'Europa dilaniata dai nazionalismi, non smettono di combattere per la fratellanza universale. E lo facciamo insieme a Tony Senta, un amico di Walloon che ha dato alle stampe nel 2024 per Eleutera Pane e Rivoluzione, l'anarchia migrante 1870-1950. Grazie Tony, grazie per essere qui con noi per l'inizio di questo 80° anniversario della Resistenza. Ecco, noi di Walloon abbiamo pensato di cominciare non con la Resistenza, ma vedremo che ovviamente c'entra qualcosa, ma con quello che è successo prima, con l'antifascismo. E tu hai scritto questo libro bellissimo che si chiama Pane e Rivoluzione, l'anarchia migrante, che tratta di anarchici e anarchiche in giro per il mondo. Ecco, intanto ti chiedo questo per chi lo leggerà. Perché queste persone, ovviamente tu hai preso una categoria ben precisa, un'idea ben precisa, cioè l'anarchismo, perché emigrano? C'è solo un motivo o ce ne sono tanti? Beh, migrano certamente per tanti motivi, così come migrano e hanno migrato gli italiani in questo caso per tanti motivi, e sappiamo che gli italiani sono un popolo di migranti, circa 60 milioni di italiani vivono oggi fuori dai confini italiani, e ciò è frutto di una storia, e in questa storia vi partecipano anche gli anarchici che sono esuli politici, ma migrano anche per ragioni economiche e migrano anche per volontà e desiderio di cambiare mondo, cambiare orizzonte, per curiosità. Quindi certamente alla base delle migrazioni di ieri, così come quelle di oggi, ma nel mio caso insomma è uno studio storico, ci sono motivazioni economiche, motivazioni politiche, motivazioni legate all'immaginario, mi verrebbe da dire, e gli anarchici fanno parte di questa storia, hanno vissuto la dimensione della migrazione in maniera diretta, in maniera diciamo pesante, in maniera diffusa, in quanto appunto diciamo così la loro ideologia è stata osteggiata da parte delle forze statali fin dagli anni 70 dell'Ottocento. E noi non parliamo però, cioè nel tuo arco cronologico è ampio, quindi 1870-1950, quindi non stiamo prendendo in considerazione solo, la prima cosa che mi viene in mente, il fascismo, no? La migrazione antifascista causata dal fascismo. C'è una più migrazione in questo periodo dall'Italia, oppure il flusso è sempre costante secondo te? No, certo, hai ragione, questo è una parte centrale del libro, insomma, e anche di queste storie, nel senso che, come forse abbiamo già avuto modo di dire in altre interviste, gli anarchici sono tra coloro i quali, no, nel fronte cosiddetto sovversivo, migrano per primi, a inizio degli anni 20, a volte a ridosso proprio della marcia su Roma ottobre 22. Perché? Perché fanno parte di quegli elementi popolari che si scontrano, diciamo, armi alla mano con il primo fascismo, e sono quindi costretti ben presto ad emigrare. Quindi c'è questa vicenda di questo tipo di emigrazione, no, che è stato poi ribattezzato fuoriuscitismo, che in realtà è un termine dispregiativo usato dallo stesso Mussolini per etichettare in maniera negativa gli esuli, e poi fatto proprio in qualche misura dagli antifascisti che hanno dovuto insomma varcare le Alpi o salpare. Ecco, e tra questi ci sono i libertari italiani che affluiscono in Francia, affluiscono in Belgio, in Inghilterra, e comincia una vicenda secondo me molto interessante di un lungo antifascismo che dura certamente per un ventennio, e li ritroviamo poi nella resistenza propriamente detta, cioè nel 43-45. Spesso sono fisicamente le stesse persone che sono migrate a inizio anni 20. In questi vent'anni, diciamo, dell'antifascismo in giro per il mondo, ci racconti moltissimo delle riviste. Questo mi ha colpito molto. Attraverso le riviste gli anarchici continuano a lottare per la loro causa, possiamo dire. Queste riviste, anche se sono scritte in posti che non sono l'Italia, sono in italiano. Quanto sono importanti queste riviste per mantenere l'idea dell'anarchismo importante? Allora, innanzitutto sono molto importanti. Innanzitutto devo dire sono importanti per lo storico, o meglio, parlo in prima persona, per il mio lavoro di storico, nel senso che io ho utilizzato, abbiamo a disposizione diverse fonti, in particolare le carte di polizia, chiamiamole così, insomma le fonti istituzionali statali, e accanto ad esse però abbiamo la produzione propria di questa parte politica specifica, in particolare i periodici, non solo certamente, ma in particolare i periodici. I giornali sono un po' lo strumento organizzativo del movimento, spesso si ha un'idea semplicistica di un movimento anarchico come disorganizzato, sappiamo insomma che anche il concetto di anarchia è quello di una pratica di fatto organizzativa orizzontale e non gerarchica, quindi ecco, i giornali svolgono questa funzione, cioè io direi questo, il movimento anarchico di lingua italiana e il movimento anarchico in generale storicamente si è sviluppato come una rete e la rete è composta di diversi nodi, i nodi sono appunto anche e soprattutto direi i giornali. Considerate che quasi il 40% dei giornali anarchici italiani in questo periodo storico lungo, no, 1870-1950, sono stampati all'estero ed hai ragione, e sono per lo più quasi tutti, per la maggior parte perlomeno, in italiano e quindi servono a mantenere i legami all'interno delle comunità migranti, servono per mantenere i legami con coloro i quali sono migrati in altre parti del mondo, quindi un giornale negli Stati Uniti viene spedito in diverse parti, fin anche in Australia, ad esempio, e certamente in Italia, durante il fascismo in maniera clandestina, altrimenti in maniera non clandestina, ma serve proprio per mantenere legami e questa, passatemi il termine, italianità, cioè questo esprimersi in lingua italiana rivela un il normale, no? Attaccamento alla cultura di origine che i migranti di ieri e di oggi sperimentano. Più o meno, io studiando anche un po' l'emigrazione antifascista, sapevo di molti paesi, già le hai citati tu, tutta l'Europa ovviamente, anche gli Stati Uniti, molto, dal Messico, andiamo giù in Argentina, ma a me nel tuo libro mi ha colpito un capitolo, cioè quello dedicato all'Egitto. Che cosa vanno a fare in Egitto? Cioè, non avrei mai pensato che ci fosse stata una migrazione anarchica anche in questo paese. Sì, effettivamente anch'io lo trovo interessante. Dunque, io direi che in questo gli anarchici ripercorrono già quel percorso all'interno del Mediterraneo, cioè ecco, già il grande storico Fernand Braudel identificava l'Europa in realtà con lo spazio del Mediterraneo, no? Quindi proprio storicamente, no? Lui è uno storico chiaramente che studia il Medioevo, poi l'età moderna, ma identificava l'Europa non come la identifichiamo oggi, ma come lo spazio del Mediterraneo. E quindi c'è una permeabilità tra i confini dell'Italia, del Sud Italia e del Nord Africa, dato proprio dal Mediterraneo. Pensate l'attualità di questo discorso, laddove appunto vengono posti infiniti ostacoli e politiche di respingimento nei confronti dei quali invece cercano di approdare, diciamo, dal sud del Mediterraneo alle coste del nord del Mediterraneo e era già una rotta quella degli esuli dall'Italia al Nord Africa, Egitto ma anche Tunisia, dei patrioti risorgimentali, quindi gli anarchici che effettivamente si stabiliscono in Egitto, in particolare ad Alessandria d'Egitto, importante porto, città di scambi di commerci, città tra l'altro della gioventù di Ungaretti, insomma dove c'era una ben presente colonia italiana, gli anarchici si stabiliscono fin dagli anni 70 dell'Ottocento, cioè in seguito ai tentativi insurrezionali che vengono compiuti in Italia 1874 e 77, parte sono costretti in seguito alla repressione a fuggire e si stabiliscono ad Alessandria d'Egitto. È un luogo, come dire, naturalmente affacciato sul Mediterraneo, che permette loro di mantenere collegamenti e uno sguardo, diciamo così, privilegiato verso l'Italia, insomma. Non facile sarà l'ambientamento, non facile saranno i rapporti con le popolazioni locali, in particolare autoctone, ma appunto Alessandria è in realtà alla fine dell'Ottocento e con inizio Novecento un centro internazionale da un punto di vista culturale, da un punto di vista economico, da un punto di vista politico. A proposito di questo, tu nel libro fai riferimento a alcune biografie, Malatesta, ovviamente il nostro Enrico Malatesta, importantissimo, Ugo Fedeli che hai già studiato, uno che voglio citare perché è mio conterraneo, Carlo Tresca degli Stati Uniti, ma sono soprattutto biografie di uomini. Ovviamente la migrazione, lo vediamo anche adesso, è un fatto prevalentemente, prima di tutto, maschile. Ci sono delle donne che emigrano, anarchiche, che poi fanno certo tipo di percorso, non solo legate ai mariti, ecco? Sì, certo, ci sono, è vero, tratto più di uomini che di donne, ma come dire, è un problema anche e soprattutto di fonti. Esatto. Le fonti non sono facilmente reperibili in genere, secondo me, per ricostruire la storia dell'anarchismo, ancor di più per le anarchiche donne, la cui presenza è storicamente sottovalutata e quindi anche la documentazione esistente è scarsa. Detto questo, ci sono diverse figure, quella forse alla quale sono più legato è Maria Luisa Berneri, perché Maria Luisa Berneri è una militante, è una teorica, credo sottovalutata probabilmente perché è morta giovane, ma fa una vita estremamente interessante. Innanzitutto è costretta all'esilio da bambina, a metà anni 20, quando il padre Camillo Berneri e la madre Giovanna Caleffi sono costretti alla fuga da Firenze in seguito a diverse aggressioni fasciste, e quindi si stabilisce con la famiglia a Parigi e da qui poi a Londra, dove arriva nella seconda metà degli anni 30 e contribuisce a redigere diversi giornali, comincia con uno che si chiama Spain and the World, quindi in realtà questi sono giornali inglesi, fa parte di un gruppo che si chiama Freedom, tra l'altro ancora oggi attivo con una casa editrice con sede a Londra, e supporta la causa dei repubblicani spagnoli. Si prende anche, fa anche opera di assistenza, di promozione, di sottoscrizione per gli orfani dei repubblicani spagnoli, e poi con l'inizio della Seconda Guerra Mondiale si dedica certo all'attività militante, ma anche all'attività teorica, e scrive diverse cose, tra cui un importante libro, secondo me importante, Viaggio attraverso Utopia, che è una disamina, una analisi di questo tema, no? Dell'utopia, quindi delle principali utopie, diciamo dall'antichità, da Platone per intenderci, fino al Novecento. Ecco, questo è un esempio, ma trovate Clelia Premoli, trovate Ercilia Cavedagni, trovate diverse figure, alcune già un pochino note, altre direi del tutto sconosciuto, che insomma ho provato a valorizzare, diciamo così. A proposito, in qualche modo, di utopie, avevi già accennato prima, ma alcuni di questi anarchici e anarchiche ad un certo punto tornano in Italia e si uniscono alla resistenza. Ci sono battaglioni, brigate anarchiche, insomma, che cosa fanno in questi 20 mesi di resistenza? Sì, il discorso qui è complesso, possiamo riassumerlo in questo modo. Allora, da un certo punto di vista il contributo degli anarchici alla resistenza è importante, c'è stato, è stato da un punto di vista storiografico sostanzialmente ignorato, comunque sottovalutato in gran parte, e questa è sicuramente una mancanza della nostra storiografia. Questo è il primo punto. Secondo punto, allo stesso tempo la centralità, a mio modo di vedere, nella storia dell'anarchismo e dell'antifascismo anarchico è la Spagna 36-39, e sappiamo che la Spagna comporta una sconfitta dei repubblicani, degli antifascisti, e comporta anche una lacerazione interna alla sinistra, semplificando comunisti versus anarchici, che lascerà profonde ferite. Quindi gli anarchici, il movimento anarchico arriva all'appuntamento della resistenza indebolito, proprio nei suoi elementi tra virgolette di punta, nei suoi gruppi più importanti, ovviamente dell'esilio. Quindi io direi che è difficile identificare un'adesione organizzata a livello nazionale alla resistenza, dipende dalle regioni. In alcune regioni, Liguria, Toscana, in particolare la Lunigiana, Lombardia, in particolare la zona di Milano, gli anarchici partecipano in massa e in maniera attiva, nel senso che hanno formazioni proprie, questo in particolare nel genovesato e in Lunigiana. A Milano anche sono molto presenti, confluiscono proprio nei giorni immediatamente precedenti all'insurrezione, al 25 aprile, dentro le brigate Matteotti. Ecco, quindi io direi questo: un ruolo importante, un ruolo spesso in prima fila, ma un ruolo allo stesso tempo, un ruolo politicamente, questo è un mio giudizio, non incisivo, non particolarmente incisivo. Saranno molti casi di memorie, insomma, che danno conto della delusione che via via matura nella seconda metà degli anni 40 e con l'inizio degli anni 50 per una certa evoluzione o involuzione dell'Italia liberata. Tra utopia e lotta, 80 anni di resistenza, è lo speciale della redazione di Vallun dedicato alla lotta di liberazione. Potete riascoltare tutte le puntate in podcast su www.radiovallun.info e sulle principali piattaforme audio. La voce che avete ascoltato all'inizio della puntata è della partigiana Vinka Kitarović.